GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Quella di stasera è la grande notte della Roma, che all'Olimpico si gioca un pezzo del suo sogno europeo contro il Manchester United nell'andata dei quarti di Champions. KO Totti per infortunio, il trascinatore giallorosso sarà De Rossi, mentre Spalletti scaccia i fantasmi del 7-1 subito un anno fa contro i Red Devils. Era difficilissimo contro un grandissimo avversario che è pieno di giocatori importanti, ne ha tanti anche in panchina. Dovremo stare attenti come dovranno stare attenti loro a noi. Una Roma più matura, più esperta, la maturità, le esperienze vissute anche in quel 7-1 lì l'hanno fatta crescere, di conseguenza noi siamo nelle condizioni di fare il risultato e di passare il turno. Stasera in campo anche Schalke 04 Barcellona. Tra i catalani neppure convocato Ronaldinho. La sua avventura in Spagna sembra ormai al capolinea. Domani Arsenal, Liverpool e Fenerbahce Chelsea. In Serie A intanto saltano altre due panchine. L'Empoli esonera Malesani e richiama Cagni, mentre il Catania dice addio a Silvio Baldini. Al suo posto Walter Zenga. A Parma invece Hector Cooper prova a far reagire un ambiente ancora sotto shock per la morte domenica del tifoso emiliano Matteo Bagnaresi. È una situazione dura, dura. Quando muore un tifoso è per tutta la squadra, per il club, per la famiglia, per l'esport stesso, è troppo duro. Non solo per il calcio e la Roma, stasera grande serata europea anche per la Siena del basket. I biancoverdi ospitano in gara 1 dei playoff di Eurolega i turchi del Fenerbahce. Il tecnico senese Pianigiani. Questa avversaria qui, per le caratteristiche che ha e per come siamo noi, è una avversaria particolarmente tosta e impegnativa. Credo che sarà comunque sia bellissimo da vivere per noi, ma anche per tutti i tifosi e per tutta la città. Per il nuoto scattano oggi a Livorno i campionati italiani validi come qualificazione ai giochi di Pechino. La Federnuoto ha deciso di non consentire l'uso del controverso costume Laser Racer della Speedo, col quale finora sono stati segnati 17 nuovi record mondiali, in attesa che la Federazione Internazionale ne ribadisca la regolarità. E sempre sulla strada verso Pechino muove i primi passi la stagione del canottaggio, consueto bacino di medaglie per l'Italia. Il presidente federale Renato Nicetto guarda già i possibili avversari ai giochi cinesi. A partire dalla Germania, alla Francia, agli Stati Uniti, all'Australia, abbiamo visto un'elevazione di valori strepitosa, veramente tutte le nazioni stanno lavorando, c'è una preparazione accurata, scientifica da parte di tutte le nazioni per poter avere il massimo di risultato alle Olimpiadi. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.